La nostra casetta dei libri è diciamo, collocata sul sentiero che collega il diciamo, parcheggio di Via dei Fornaciai in zona Arcoveggio alla Restara ciclovia del Navile all'altezza del parco ex Pavirani, dietro diciamo, alla Cabuia e al parco dei Giardini. È un sentiero che viene frequentato molto dai lavoratori che si recano nella zona logistica che c'è in via Cristoforo Colombo, oltre che da passeggiatori, scolaresche e anche gruppi organizzati che vanno in gita sul Navile. Quindi il punto è Arcoveggio da via dei Fornaciai, accesso sul parco del Navile. Frequentato anche da chi vuole mantenersi in forma e fare una corsetta o una passeggiata veloce, così magari ci passo anch'io per rimettermi in sesto. Esattamente, esattamente. Poi era, diciamo che c'era anche una frequentazione meno legale ed è stato anche questo uno dei motivi che ci ha spinto a ragionare sul creare la casetta. Insomma, è una zona della prima periferia dove ogni tanto abbiamo qualche episodio di degrado e con gli amici dell'associazione Il Nostro Navile cerchiamo anche di tenere controllato il territorio, e la casetta aveva anche questo scopo, diciamo, di implementare la fruizione e il passaggio di quel punto in maniera positiva. Non è il primo posto per scambiare libri e per trovare dei testi, curiosità e quello che è una condivisione molto importante, ma certamente ha delle caratteristiche che danno un valore aggiunto, come dare importanza a una passeggiata nel verde, dare importanza al territorio, dare importanza per mantenere un aspetto e non è trascurabile a un abbandono, mentre invece valorizzarlo con un motivo in più. Avrete intuito che si tratta della tipica edificazione semplice, immediata e piccola, ma di contenuto molto importante, dove potete, immagino e mi permetto di dare qualche anticipazione, certo. Lasciare i vostri libri e ritirarne qualcuno di vostro interesse e continuare così uno scambio di comunicazione letterario. Dal punto di vista del concreto funzionamento, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa, Michela? No, aggiungerei che in questo momento la fruizione dei libri è libera, cioè i libri sono liberi, si possono prendere senza che necessariamente certo. Ci sia uno scambio, perché noi proprio crediamo che attraverso la lettura le persone possano essere più libere, che i libri ci insegnino a vivere e amplino la nostra immaginazione, anche l'immaginazione morale, come ci diceva Carlo Ginzburg. Non c'è obbligo di scambio, vogliamo seminare cultura, questo è lo scopo nostro fondamentale, seminare cultura anche sulle sponde del Navile e anche in una zona un po' nascosta, invitare alla lettura, consentire a chi non può o a chi non ha l'abitudine comunque di andare in biblioteca, in edicola o in libreria di potersi avvicinare al libro. Quindi in questo momento si può venire, c'è una panchina, si può stare lì a leggere, si può prendere il libro, portarlo e riportarlo. E il progetto sta funzionando, cioè tutte le settimane io mi reco, me ne occupo, controllo, metto i libri nuovi. Chiaramente appunto c'è anche una parte di lavoro, perché la casetta va comunque tenuta controllata, certo. Monitorata. Però vediamo che funziona, anche nelle giornate più fredde e nebbiose la nostra piccola dacia dei libri fa il suo lavoro, diciamo. Sì, io mi sono permesso, sai, scusami, mi sono permesso di dire certamente è gradito se lasciate anche qualcosa di vostro, oltre che per motivo di partecipazione, io credo molto nella gratitudine e per questa iniziativa essere protagonisti con uno scambio, lasciando qualcosa di nostro, resta comunque un importante messaggio per queste iniziative, oltre che un aiuto concreto. Certo, non vi è l'obbligo, questo è un consiglio personale di William Piana, certo. Io farei così, ecco, poi certamente no, ma assolutamente sono graditi i libri, però proprio perché non si abbia il timore di dover portare certo. qualcosa volevo lanciare questo messaggio. Naturalmente la casetta è un progetto, era una mia idea, poi assieme a due amici, perché da sola non ce l'avrei fatta, che sono molto attivi su quel territorio, Mauro Tolomelli e Gian Domenico Fortino, siamo riusciti a concretizzarla. E io dico sempre che l'unione fa la forza, perché ci credo, per cui con l'aiuto di un falegname che è l'India dei Fornaciai, che ha assemblato con materiali ecologici e riciclati la casetta, con degli operai che ci hanno aiutato a cementarla, naturalmente con il permesso e il patrocinio non oneroso del quartiere Navile, siamo riusciti a realizzarla. E abbiamo dei progetti per la primavera, perché deve essere un luogo di scambio. Quindi speriamo di riuscire a fare delle letture, speriamo di riuscire ad avere la collaborazione della biblioteca di Corticella, con cui siamo in contatto, siamo iscritti anche al patto per la lettura del comune di Bologna, e soprattutto Willy, il nostro progetto è di allargarsi, di espandere. Abbiamo 5 casette pronte, bellissime, che ci ha regalato l'associazione Equilibristi, che fa un lavoro ben sviluppato sul territorio, molto simile, e ne abbiamo 5. Adesso dobbiamo capire come possiamo andare ad installarle per ampliare il progetto lungo tutto il canale, in previsione, anche speriamo, che si possa realizzare quel famoso parco del Navile, tanto, tanto desiderato e tanto voluto da molti cittadini residenti. Quindi non solo, anche se è importante, una dacia e una casetta per i libri, ma anche progetti futuri, possibilità con la bella stagione di incontro concreto, magari con presentazione, motivi di ritrovo e quello che può essere una divulgazione letteraria. Per cui sì, di casette dei libri chiaramente conosciamo la modalità di iniziativa. Abbiamo presentato i valori aggiunti che propone Michela e uno staff veramente impegnato per la diffusione letteraria e culturale, per la valorizzazione del territorio, per un'attenzione che porta cittadine e cittadini non solamente in zona Navile, ma ovviamente per tutte e per tutti, ad avere uno sguardo in più grazie a tutto ciò. Vedi, si parte da una piccola casetta e poi piano piano le idee nascono spontaneamente, certo con la collaborazione di tutte e di tutti. Michela, cosa stai leggendo in questo momento, visto che siamo al voltiamo pagina? Dimmi. Allora, sto leggendo due libri, sto leggendo Paolo Nori, Chiudo questa porta e urlo, devo dire il libro bellissimo sulla nostra, sulla emilianità, mi permetterei di dire, e sul poeta romagnolo Baldini. Poi sto leggendo il libro biografia storia politica della città di Ugo Mazza, ex dirigente PC e assessore qui da noi in città, quindi due letture diverse, una narrativa e una più di saggistica. L'uomo nero e la bicicletta blu, mi ricordo, di Baldini, che è un libro veramente molto molto bello a tale proposito. Quindi io ti ringrazio tantissimo, Michela, per questa anticipazione. Ci congediamo ricordando il luogo, non dico le coordinate geografiche, ma il luogo per questa dacia dei libri. Allora, il luogo è Parco Ex Pavirani, accesso da via dei Fornaciai civico 25, sentiero che arriva sulla Restara, ciclovia del Navile.